Ribadiamo un po' le condizioni dell'offerta di Swisscom su Fastweb, perché era maturata questa decisione in settembre, e quali sono anche i termini economici e finanziari di questa operazione. Molto semplicemente verrà ritirato dal mercato il residuo circa 18% delle azioni Fastweb esistenti come flottante, che non sono ancora in mano alla controllante Swisscom, più precisamente Swisscom Italia, che è una controllata della Swisscom Svizzera. Questi 18 euro per azione sono stati calcolati da Swisscom in base a diversi parametri, tra cui è stato indicato ovviamente l'andamento dei titoli negli ultimi 12 mesi, che è stato compreso fra 10,77 e 20,66 euro per azione, quindi è stato offerto un valore vicino, abbastanza vicino ai valori massimi del periodo. Inoltre sono stati tenuti in considerazione anche, per esempio, i report emessi da analisti finanziari sul titolo Fastweb negli ultimi periodi, che ovviamente indicavano target più bassi perché le quotazioni erano più basse. Comunque usualmente chi desidera ritirare un titolo dal listino offre un premio sulle quotazioni di borsa in quel momento esistenti, che chiaramente può variare a seconda della generosità dell'offerente, a seconda del fatto di quanto desideri effettivamente ritirare il titolo dal mercato. Esatto, tra l'altro è molto curioso che stiamo a parlare di premio di mercato e questo è, come dire, un aspetto anche molto frustrante per tutti quegli investitori, l'abbiamo detto anche l'altra volta, che in realtà hanno un prezzo di carico molto più alto, perché questa è una società che ha vissuto delle fasi altalenanti, ma soprattutto felici. All'epoca della New Economy fu quotata questa azienda nel 2166 euro, raggiunse dei massimi molto più alti, e soprattutto quando gli svizzeri di Swisscom fecero la loro prima offerta proprio per il controllo della società la fecero a 47 euro, quindi siamo ben distanti, Valeria, anche da quei prezzi.